24 mattino. Allora, alle 8:19 minuti, eccoci qua 24 mattino per parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci. Eccoci, buongiorno. Chissà quanti ci stanno ascoltando e hanno già preso, stanno prendendo un bel caffè. Esatto, io ho già dato anche stamattina il primo. Io no, il primo io della no. giornata e chissà quanti ne seguiranno come al solito. È ovvio. Allora, parliamo di caffè e del prezzo del caffè, perché siamo tutti in allarme. Siamo in allarme perché praticamente il prezzo del caffè sta volando. Ovviamente parliamo di prezzo del caffè che viene coltivato in paesi che sono grandi produttori. Parliamo del Brasile, parliamo della Colombia, dove ci sono delle condizioni climatiche che in questo periodo stanno gettando appunto un po' di allarme, e ovviamente si è scatenato l'allarme anche tra quei paesi che ne fanno un largo consumo, perché qualcuno sta già ipotizzando che anche la tazzina di caffè potrebbe aumentare di prezzo. Qual è la situazione? Questa mattina la commentiamo con Luca Solari, presidente del Comitato Italiano Caffè. Presidente, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti. Allora, tanto per cominciare, in Italia l'85% della popolazione adulta beve non meno di 3 tazzine al giorno e consuma ogni anno quasi 6 milioni di sacchi di caffè, e per ogni sacco fanno 60 kg. Siamo il quinto paese al mondo per consumo di caffè dopo brasiliani, americani, tedeschi e giapponesi. Allora, prima di andare a verificare quello che potrà succedere nel nostro paese, perché so che tra l'altro lei ha sentito la Federazione dei Pubblici Esercizi per capire effettivamente quanto allarme c'è anche a questo livello per un possibile aumento del caffè e del cappuccino, ci può spiegare esattamente cosa sta succedendo per quello che riguarda il quadro internazionale, perché c'è questa preoccupazione? Sì, in taluni periodi dell'anno effettivamente ci sono parecchie, ogni tanto ciclicamente, voci che possono indurre a fare questo tipo di pensieri, e possono uscire articoli su vari giornali o interviste che dicono in un paese manca l'acqua, in un paese è piovuto troppo, in un paese i raccolti sono scarsi, in altri sono... Quindi fondamentalmente al momento ci sono alcune tensioni, ma non sono così immediate da indurre un aumento, un subitaneo aumento del caffè al bar. Ecco, però da quello che ci risulta, Presidente, a New York, che è il mercato mondiale di riferimento, per esempio il prezzo dell'Arabica, che è la qualità di caffè considerata la migliore, c'è stata una crescita del prezzo da $1.15 a $1.30, il 22% di più di quanto costava per esempio lo scorso dicembre, quindi qualche dinamica verso il rialzo c'è stata. Non è però un livello preoccupante, dice lei? Non è ancora un livello preoccupante. Noi operatori del settore siamo abituati a convivere purtroppo con gli andamenti altalenanti delle borse di questa commodity. Andiamo in un periodo in cui a giugno ci saranno gli andamenti dei nuovi raccolti in Brasile, ed è sempre un periodo piuttosto critico anche per la presenza di eventuali gelate in Brasile. In tal caso si possono creare in borsa degli scostamenti che possono arrivare anche al 100% in poche settimane. Quindi tutto sommato lei dice una situazione sotto controllo. Allora perché si è generato questo allarme su un possibile aumento dei costi della tazzina del caffè, quella che consumiamo al bar ma anche quella che consumiamo a casa, perché in Italia, dicevamo, siamo dei grandi consumatori anche domestici di caffè? Sì. Guardi, per quanto riguarda la tazzina al bar, le confermo la volontà di tutti gli operatori del settore e tutti gli operatori del settore caffè, il Comitato Italiano Caffè, che è l'organo di vertice, insieme alla FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, stanno assolutamente facendo ogni sforzo per cercare di calmierare i prezzi e di non riversare in un settore già così tanto bersagliato ulteriori aumenti. Perché una tensione c'è comunque, mi sta confermando. In questo preciso momento c'è una tensione sui mercati internazionali, che poi comunque va sempre vista insieme, oltre alla quotazione di borsa, ai premi, ai differenziali che ci sono su ogni qualità di caffè che si compra e sull'andamento del dollaro. Per esempio, in questi ultimi 2-3 anni l'andamento del dollaro e dei differenziali sono sempre stati compensativi, cioè di segno opposto, sull'andamento della borsa, e quindi hanno fatto sì che i momenti di forti aumenti si è riusciti a calmirare e a contenerli, e viceversa adesso che i momenti di ribassi altrettanto. Ecco, quindi ci sta rassicurando sul fatto che comunque quantomeno nel breve termine il prezzo della tazzina del caffè non schizzerà. Tra l'altro ho letto un'intervista di Andrea Illi, presidente di Illi Caffè, che dice che in ogni caso in Italia il prezzo della tazzina di caffè al bar è ancora tra i più bassi d'Europa, in media siamo ad 85 centesimi, presidente. Sì, questo è assolutamente vero, Italia e anche Portogallo sono i paesi in cui la tazzina è ancora a prezzi mediamente più bassi rispetto ad altri paesi. È anche vero che siamo i paesi forse dove c'è una ritualità legata al consumo del caffè in tazza al bar fuori casa, che in altri paesi non è così sviluppata. Indubbiamente il bar comunque in questo periodo sta subendo effettivamente parecchie pressioni e il settore si sta progressivamente impoverendo. La raccomandazione che io faccio sempre in ogni occasione in cui mi viene concesso a tutti gli operatori di caffè, dai produttori ai trasformatori finali, sì, è quello di mantenere in ogni caso un elevato standard qualitativo per far sì che il caffè sia un vero piacere e venga mantenuto tale. Certo, almeno in Italia la raccomandazione che noi raccogliamo molto volentieri, presidente. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, un tema che ci piaceva molto, questa mattina non riusciamo a sviluppare ulteriormente, però insomma cogliamo questa sua indicazione sul fatto che comunque non vedremo esplodere, almeno nel breve termine, il prezzo. Vedremo cosa succederà nel lungo periodo. La ringrazio molto per essere stato con noi, buona giornata. Buongiorno, presidente. A tutti, grazie. Alessandro. Sì. E allora, Deborah, alle 12... Alle 12 sabato, facciamo una cosa molto divertente. Arriva una multa che riteniamo ingiusta, come possiamo difenderci? Cosa facciamo? Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Tiene 3 volte la fiducia al decreto sicurezza alla Camera, oggi il voto finale. Nasce il reato di clandestinità, si legalizzano le ronde, si allunga a 6 mesi la permanenza degli immigrati nei centri di identificazione. Per la CEI, la conferenza dei Vescovi, la norma nega l'integrazione. All'Italia scelto sarà Fiumicino, l'aeroporto principale della compagnia. Malpensa viene declassato, protesta la Lega, così come il presidente della Lombardia Formigoni, che dice porremo la questione del monopolio. La leader dell'opposizione in Birmania, Aung San Suu Kyi, è stata incriminata per aver violato gli arresti domiciliari in occasione della visita non autorizzata di un americano alla sua residenza. Trasferita in carcere, verrà processata il 18 maggio. Infine per il calcio, la Lazio ha vinto la Coppa Italia battendo ai rigori la Sampdoria nella finale giocata a Roma, 1-1 ai tempi regolamentari, decisivo al 14° tiro dal dischetto il gol di Dabo. La Lazio con questa vittoria conquista un posto in Coppa UEFA. E allora 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Alle 8:33 minuti, oggi è la giornata importante perché oggi si apre la Fiera Internazionale del Libro a Torino, dal 14 maggio fino al 18. Tra poco andremo anche a Torino, anche perché insomma Radio 24 è anche impegnata in prima fila, è lì ben presente. E io voglio salutare tra l'altro Salvatore Carrubba. Carrubba, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Salvatore Carrubba, presidente di 24 ore Motta Cultura, firma prestigiosa del Sole 24 Ore, possiamo dire anche voce di Radio 24, insomma, certo, visto un libro tira l'altro la domenica alle 13:30. Allora, Carrubba, ogni volta che si aprono queste importanti manifestazioni come la Fiera Internazionale del Libro, insomma, il libro ritorna in primo piano. Ritorna in primo piano per 4 giorni o si può sperare che insomma questo popolo di italiani, di scarsi lettori, possa rimettere un po' il libro al centro? Ho sentito il suo commento, lei diceva, insomma, spesso si chiude questo canocchiale sul mondo che è il libro, no? Sì, no, la mia impressione è che Torino sia una grande kermesse di cui c'è bisogno per riaccendere i riflettori sul cannocchiale, però ci si dimentica poi nel resto dell'anno che gran parte degli italiani non leggono, e la cosa che mi ha stupito in questi ultimi mesi è che ci sia da parte anche del governo la tendenza a sminuire molto l'importanza dello strumento libro, per esempio questa insistenza sul fatto che la scuola deve avere i libri elettronici, si devono scaricare i libri da internet, serve tutto ciò a trasmettere l'impressione che il libro sia quasi una cosa inutile, un peso, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche economico e quasi sociale. E allora bisogna combattere questa idea, bisogna combattere l'idea soprattutto che l'elettronica possa sostituire il libro, il quale rimane uno strumento straordinario di conoscenza e di diffusione. Ma certo, ma questo è fantastico. Ieri Umberto Eco, per esempio, in un'intervista alla Stampa dice: per me è ancora importante bagnarmi il dito per girare la pagina. Come si fa a non capire, insomma, la bellezza, il fascino, no? dei polpastrelli che toccano le pagine, insomma, come si fa a spiegarlo se uno non lo capisce? Voglio dire, mi verrebbe da dire Carrubba. Quindi, insomma, l'ebook, per esempio, questo strumento che si sta molto affermando, sì. che possiamo dire? Ma l'ebook è anche una cosa intelligente, nel senso che affrontando la questione come editori, quanto più strumenti ci sono per diffondere la lettura, meglio è. Però questo non può andare a toccare l'intangibilità e il valore del libro, cioè il valore della lettura, perché temo che poi questo sia in ballo, il fatto cioè che ormai un pezzo di popolazione abbia rinunciato a immergersi nella lettura sotto varie forme proprio perché ha diffidenza verso lo strumento e nessuno gli spiega l'importanza di questa attività, che è un'attività sociale, non individualistica la lettura, proprio perché ti mette in contatto con milioni di altre persone che hanno letto quel libro, che hanno palpitato con quell'autore, che hanno appreso delle cose che quel libro trasmette, quindi è uno strumento di socialità quanto pochi altri il libro e la lettura. Ecco, io penso e spero che da queste occasioni con quello di Torino venga fuori questo valore. Possiamo sperare che appunto non sia un qualcosa che rimanga isolata questi quattro giorni, ci sarà anche un fiume di persone, giustamente, insomma, adesso poi spiegheremo anche cosa farà il gruppo, cosa farà la radio, però appunto che non rimangano isolate, fine a se stessi, iniziano, finiscono queste grandi fiere e poi insomma come diffonde la cultura della lettura è un qualcosa di più complicato, insomma, come diceva, no? Problema che ci si sta ponendo in tanti, adesso noi apparteniamo a un grande gruppo editoriale, questa radio e noi stessi che ci lavoriamo, dobbiamo ricordare che è un tema che per esempio riguarda anche i giornali stanno subendo questa trasformazione e come si devono offrire i giornali e la lettura che propongono in un mondo che legge sempre meno e a generazioni che sono abituate a strumenti, a piattaforme sempre più multimediali e che mettono o danno l'illusione di entrare in contatti sociali molto più frequenti. Il tema della lettura è un problema quindi che veramente segna la trasformazione della nostra società e direi anche il modo in cui le nuove generazioni si relazioneranno fra di loro, perché non credo che possa bastare Facebook per avere una società più partecipata. Allora, tra pochi secondi noi andiamo a Torino, dove c'è la nostra Alessandra Tedesco. Prima Carrubba, il gruppo insomma è anche presente, come il gruppo è presente, gruppo sulle 24 ore ovviamente. Avremo, a parte la postazione della radio, naturalmente avremo uno stand nel quale sono presenti i nostri marchi, che sono 24 ore Motor Cultura e Alinari 24 ore, due marchi prestigiosi della cultura italiana, presenti nel settore della trasmissione delle immagini, delle mostre, del libro d'arte e della anche saggistica, perché non dimentichiamo che dentro 24 ore Motor Cultura ci sta un altro marchio prestigioso della cultura italiana, cioè Scheiwiller, un marchio che si è specializzato in questi ultimissimi mesi nella saggistica artistica e nella letteratura e poesia, che è stato sempre fiore all'occhiello di Scheiwiller. Quindi la presenza completa del nostro gruppo, che segna questa alleanza che c'è ormai da tantissimi anni fra il 24 ore e la cultura in generale. E allora, visto che si apre alle 10, dunque tra poco più di un'ora e mezza, io voglio andare a Torino dalla nostra Alessandra Tedesco. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Ovviamente sei ancora fuori, non sei nella postazione perché è tutto chiuso. No, perché tra l'altro naturalmente non è possibile ancora entrare perché ci sono i controlli di sicurezza, in quanto l'inaugurazione di questa mattina intorno alle 10 sarà fatta dal presidente della Camera Fini e quindi come ovvio certo. Che sia, ci sono i controlli di sicurezza in corso. Allora, prima si diceva il fascino, per quel che mi riguarda, il fascino insomma di toccare le pagine, il fascino anche, qualcuno dice, del profumo delle pagine del libro, chissà che profumo ci sarà oggi alla fiera del libro. Allora, e beh, ce ne sarà tanto. esatto, perché lì vi sono veramente migliaia, migliaia e migliaia. Forse anche troppi, se ne pubblicano anche troppi, questo è un altro tema. Alessandro, considera che tutti i giorni in Italia vengono pubblicati 150 titoli. 150, compresi naturalmente professionali scolastici, però insomma considerando che 6 italiani su 10 non ha mai letto un libro nel corso dell'ultimo anno, questo ti dovrebbe dare la proporzione, E beh, insomma, effettivamente. Allora, tra l'altro, c'è anche da registrare, io non lo volevo fare, ma bisogna registrarlo perché la cronaca è anche questo. C'è gente che anche quest'anno protesta, voi ricordate l'anno scorso ci furono polemiche perché l'invitato era lo Stato di Israele. Quest'anno è l'Egitto, no? Se non sbaglio, e c'è anche lì c'è chi protesta. Chi protesta? E sono gli stessi dell'anno scorso, cioè il Forum Palestina, che è un gruppo, diciamo, legato soprattutto all'estrema sinistra. Perché protestano? L'anno scorso, perché Israele era paese ospite. Quest'anno l'Egitto è accusato di essere stato complice dell'assedio di Gaza, e quindi anche quest'anno il Forum Palestina, ma appoggiato anche per esempio dal filosofo Gianni Vattimo, lanciano ancora l'iniziativa della boicottaggio, che francamente ci sembra abbastanza stupido, anche perché alla Fiera del Libro vengono a parlare persone e personaggi, scrittori intellettuali di tutti i tipi. Per esempio, quest'anno viene lo storico israeliano, e sottolineo israeliano, Ilan Pappe, il quale è assolutamente contrario, è assolutamente antisionista. Considera per esempio l'esodo dei palestinesi, quando è stato creato lo Stato di Israele nel 48, come una sorta di pulizia etnica, la dimostrazione che la Fiera del Libro dà. No, ma infatti, ma guarda Alessandra, infatti abbiamo dedicato anche un minuto abbondante, anche un po' troppo, insomma, a queste contestazioni. Allora, dove siamo innanzitutto? Dove siamo, nel senso, noi come radio lì ci si può venire a trovare? Siamo assolutamente sì, Radio 24 è nella Padiglione 2, precisamente allo stand H170, ma insomma il numero è relativo. L'importante è ricordarsi che siamo accanto alla Sala Blu. Anzi, invitiamo gli ascoltatori a venire, perché prosegue l'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, Io in un Libro. Quindi gli ascoltatori, oltre a mandare le loro mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it, possono venire a trovarci nei nostri stand e registrare la loro personale recensione, cioè dire in quale libro si sono identificati, quale personaggio della letteratura gli somiglia di più, e le loro recensioni saranno mandate in onda da Radio 24 prossimamente. Allora, io tra l'altro, Salvatore Carrubba, visto che insomma di libri quanti ne ha letti? Non voglio neanche sapere. Quanti ne ho letti nella mia vita? Nell'ultima settimana. No. Non voglio neanche saperlo. No. Rassicuro i lettori, i libri comunque cerco di leggerli quando li presento. No, ma questo sicuramente non lo mettevamo in dubbio, ma voglio dire, no, perché io nel Cacciatore d'Aquilone, no, il consiglio che ho dato, io ho segnalato come mio libro Le Braci di Sandor Marai, insomma libro, bisogna sceglierne uno, a me è piaciuto, mi è impressionato quello. Forza, dai, le chiedo il libro della vita, il libro che non si potrà mai scordare, che magari ha segnato anche un passaggio importante della sua vita. Il libro della vita, bene, io ne ho segnati 5 una volta quando mi hanno chiesto una classifica: la Bibbia, Shakespeare, i Bundebrock, l'Antigone, e poi l'ultimo è stato Il Gattopardo. Insomma, accidenti, tutti ovviamente libri di un certo spessore, voglio dire, non un libro magari, si concede anche letture più leggere, letture più... Sì, ogni tanto naturalmente devo anche, per esempio, un genere che mi piace molto sono i gialli, e ce n'è una profluvia di gialli in quest'ultimo periodo, e devo dire che alcuni sono molto divertenti, anche alcuni gialli, per esempio questi di Roversi ambientati a Milano, devo dire che li leggo con un certo divertimento. Benissimo, allora io ringrazio Salvatore Carrubba, grazie molto, e ovviamente ricordo, presidente di 24 ore Motta Cultura, editorialista al Sole 24 ore e anche voce di Radio 24, ribotrirà l'altro. Alessandra, lì è tutto pronto, tra le 10 l'apertura Fini, quindi Fini t'aspetta, e già si sa già oggi quanta gente c'è già fermento, insomma, lì a Torino vedi gente che arriva. Beh, insomma, il giovedì è sicuramente la giornata meno frequentata della fiera, diciamo che il clou si sviluppa fra il venerdì, il sabato e la domenica. Alessandro, volevo anche ricordare che Radio 24 dai propri studi della Fiera del Libro trasmette una serie di trasmissioni in diretta. Certo. Oggi ci sarà Melog a Tempo di Sport, domani Essere Benessere, ancora Melog, La Zanzara, e anche nel weekend, poi domenica, la maratona con Il Riposo del Guerriero. Quindi gli ascoltatori che magari non possono venire fisicamente a Torino possono seguire quello che possono seguire ciò che accade in fiera attraverso le trasmissioni, ma anche attraverso i collegamenti nei GR, Extra Large e tutto il resto. Allora, alle 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 Mattino, parliamo di questa corsa al nucleare. Corsa al nucleare, sapete che il governo italiano ha detto che bisogna tornare al nucleare nei prossimi 20 anni. È stato già approvato un decreto, insomma, che prevede per i prossimi 6 mesi la possibile localizzazione delle mappe di rischio, che sono il primo passo per poi localizzare le possibili siti per le future centrali nucleari. Ne vogliamo parlare con un sindaco, Giovanni Ravasenga, che saluto, sindaco di Trino, Trino Vercellese, Vercelli, buongiorno Ravasenga. Buongiorno, insomma, buongiorno, comune, comune che di nucleare se ne intende, se non ci una delle... diciamo che mi sono fatto un'esperienza. Si è fatto un'esperienza. Senta, ovviamente anche oggi su Repubblica continua il coro, appena ieri si è sparsa la voce dell'iter che avanza. Allora, si registra, Nichi Vendola, presidente della Puglia, dovranno venire coi carri armati per le centrali atomiche. Mercedes Bresso, la presidente della sua regione, ieri ha detto: ah sì, appena scopro dove voglio mettere la centrale gli pongo un bel vincolo agricolo sul terreno e poi ce la vediamo. Caro Ravasenga, si prospetta un bel clima, insomma. Beh, certamente sì, insomma, su questa idea di reimpiegare il nucleare per la produzione di energia, insomma, ultimamente se ne sono dette tante. Io credo innanzitutto sia necessario fare una premessa. Innanzitutto noi dobbiamo, e questa è anche la mia opinione, innanzitutto noi, pensando al nucleare, dobbiamo cercare di risolvere il vecchio, che è quello appunto della presenza di questi siti, ma all'interno di questi siti di tutti i materiali radioattivi. Quindi se noi dovessimo partire oggi stesso con il nucleare in presenza ancora di questo vecchio problema che ormai ha più di 50 anni, commetteremmo lo stesso errore di prima. E che per esempio ovviamente vi riguarda, solo che anche lì localizzare il famoso deposito nazionale, si è provato anche lì a Scanzano. Certo, non è un'impresa facile, anche perché io credo che nessun amministratore, sindaco, presidente che sia di provincia o di regione in Italia probabilmente avrebbe delle grandi perplessità ad ospitare sul proprio territorio una struttura di quel tipo. Quindi innanzitutto secondo me bisogna comunque pensare ad una soluzione di dove stoccare questi rifiuti radioattivi, che non dimentichiamo oggi sono sostanzialmente per il 70% in provincia di Vercelli, quindi tra Trino e Saluggia. Quindi bisogna pensare di trovare un luogo idoneo che non è quello né di Trino e né di Saluggia, per un semplice motivo: perché non l'ho detto io, ma lo hanno detto persone molto ma molto più autorevoli di me, non ci sono le condizioni fisiche e geologiche. Senta, ovviamente anche per esempio il viceministro Urso dice: ma le ipotesi di siti che sono circolate in questi giorni sono tutte false, non c'è niente, saranno scelte tecnico-scientifiche e non politiche. Poi però dei nomi di comuni dovranno venire fuori. E allora, tra le ipotesi che circolano sempre, era quello di sfruttare già le strutture che ci sono, rimettere in funzione le strutture che già ci sono, anche se le tecnologie sono diverse. Crede che le comunità locali come la sua possano accettare, insomma, un ritorno al nucleare? Ma io mi sento di escludere, ma non perché l'ho detto io, ma ripeto perché lo hanno detto persone molto più autorevoli di me, che Trino sia il luogo, proprio perché esiste questa centrale nucleare, nel quale stoccare questi materiali. Non è possibile, non è assolutamente possibile, lo dico semplicemente per un fatto, che quella centrale, la Enrico Fermi, costruita alla fine degli anni 50, in mezzo al fiume Po, io dico sempre così, non è il luogo più idoneo, e 50 anni che lo diciamo, non è il luogo più idoneo per costruire né una centrale nucleare, né comunque un deposito che ha a che vedere con il nucleare. Va costruita in un altro posto, non certamente lì. Io credo che per fare un po' di campanilismo anche, perché di questi tempi tutti lo stanno facendo un po', no? Per fare un po' di campanilismo faccio subito una premessa: io non sono contrario a riprendere l'idea del nucleare, perché il problema energetico in Italia esiste e come, non solo in Italia ma anche in Europa, quindi va certamente rivisto e vanno considerate tutte le ipotesi per poter produrre energia, ma bisogna ovviamente rispettare delle regole. Innanzitutto cerchiamo di risolvere i problemi del passato, e quelli del nucleare di vecchia generazione, mi permetto di chiamarlo così, sì, è un problema serissimo del passato. Questo lei dice abbiamo già dato, posso tradurlo? Noi esattamente, volevo proprio, come posso dire, terminare questo concetto dicendo Trino ha già dato, da 50 anni Trino ha già dato, in più si trova in una situazione dove la dismissione di un impianto come la Fermi, il decommission, non è un'operazione semplicissima, non è come demolire un capannone, un vecchio stabile o cose di questo tipo. Però mi risulta, sindaco, perché c'è stato un emendamento votato dal senatore Zanetta, cioè proposto, ci sono ogni tanto degli UFO che si insinuano nelle nostre conversazioni, il senatore Zanetta ha votato sostanzialmente un emendamento approvato per il quale si recuperano 100 milioni di euro dalla famosa quella tariffa A2, quella A2 che non è battaglia navale. Se voi vedete sulla bolletta dell'Enel, dell'energia elettrica, pagate tutti noi italiani una A2, che vuol dire proprio una cifra che viene utilizzata per 0,014 centesimi di euro al kilowattora, per mettere a posto appunto tutto quello che era il passato nucleare. Ora, ci ha scritto anche un ascoltatore molto arrabbiato, dice: ma guardate che se preleviamo questi 100 milioni di euro dalla tariffa 2 della bolletta e li utilizziamo effettivamente per i comuni che hanno già dato come Trino, questo vorrà dire che ci dovranno aumentare la bolletta, insomma lo Stato dovrà continuare a fare cassa e quindi ci sarà una bolletta energetica più cara. Guarda, io vorrei dare una risposta essendo molto semplice, no? Il prelievo, diciamo, dalla bolletta serve ovviamente per un problema molto più ampio, che è la denuclearizzazione. Sta di fatto che comunque quelle che sono definite le compensazioni che vengono date ai comuni, no, sede di impianti nucleari, quelle compensazioni dureranno, diciamo, o saranno comunque versate a quei comuni fino a quando non sarà individuato il sito nazionale. Nel momento in cui quel sito nazionale, ovunque esso sia, sarà operativo, quelle compensazioni saranno dirottate tutte in quella località, in quella zona, in quell'ente, in quel comune. Ma non è che, voglio dire, verrà aumentata la bolletta, perché sì giustamente vengono utilizzate, finalmente in Italia si utilizza una cosa per lo scopo per cui è stata creata. Però io penso, guardi, le faccio come ho detto ad altre persone e a un suo collega che mi ha chiamato qualche giorno fa, no? Quei 100 milioni sono, chiamiamolo così tra virgolette, un residuo del passato, nel senso che erano state destinate ad altri usi, ma purtroppo la Corte dei Conti non lo ha impedito, proprio perché la natura di quel prelievo fiscale non poteva che essere utilizzato in Lei dice secondo lei non aumenterà la bolletta, poi non spetta ovviamente decidere sulla bolletta, staremo a vedere, noi monitoriamo, perché se siamo fatti così, ci ha mandato gentilmente un ascoltatore la segnalazione, noi staremo con gli occhi bene aperti. La ringrazio, Giovanni Ravasenga, sindaco di Trino Vercellese, ci fermiamo qui, Laura Marchesi in redazione con Alessandro Marco Tulli, Carmelo Lauricella in regia, tra poco Giuliano Ferrara, ospite presidente a Commissione Antimafia Pisano, si parla di immigrazione e noi ci sentiamo domattina.